L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta nella quale siamo molto lieti di ospitare Luca Martinelli. È un giornalista di Altra Economia che recentemente ha vinto un premio, il premio Sabrina Sganga, dedicato alla giornalista radiofonica di Controradio Firenze, scomparsa 2 anni fa, che è stata tra le prime, Sabrina Sganga, ad occuparsi di stili di vita e di sostenibilità con delle trasmissioni radiofoniche appunto dedicate. Luca Martinelli ha vinto questo premio con un progetto giornalistico dedicato alla riconversione, quindi storie di riconversione. Ma Luca, chiediamo a te direttamente di che si tratta. Allora, Riconversione è un progetto giornalistico che ha come scopo quello di raccontare attraverso una serie di reportage storie di cambiamento nel nostro paese, storie di cambiamento che riguardano attività economiche nei settori più disparati, dall'agricoltura all'edilizia, passando per la gestione del patrimonio pubblico e la realizzazione della cantieristica navale, appunto attività che sono tutte riconducibili all'idea da parte dei soggetti che le portano avanti di voler ridurre il proprio impatto sull'ambiente, ma anche di modificare il proprio rapporto con la società in cui si realizzano le loro attività. Quindi sono tutte storie importanti di cambiamento. Quindi sono anche storie che raccontano un si può fare, diciamo, non sono solo parole, ma sono persone che l'hanno fatto. Le storie che stiamo scegliendo sono storie che si sono già, dove il cambiamento è già avvenuto, quindi non sono soltanto idee o progetti, ma sono cose pratiche. Chi costruisce case, che non lo fa più realizzando nuove attraverso nuove realizzazioni e non lo fa più utilizzando il cemento, ma lo fa ad esempio ristrutturando e utilizzando soltanto legno, in prevalenza legno locale. Questi sono esempi concreti, queste sono anche cose che riusciamo a raccontare per immagini, che riusciamo a far vedere al lettore. A proposito di queste storie, la prima è quella dell'ipoasi. Ti chiedo un po' di tratteggiare, insomma, quello che poi tu racconti molto bene in questo reportage. Di che si tratta? L'ipoasi è una fattoria per la pace, è una fattoria per la pace, un rifugio per animali da reddito. Trovano casa, hanno trovato casa in provincia di Pisa, un'ottantina di animali che prima venivano sfruttati, le mucche per produrre latte in modo intensivo, i cavalli all'interno di maneggi, solo per fare un paio di esempi, e vivevano questi animali in una condizione di, possiamo dire, di schiavitù, in cui la loro personalità veniva repressa, non poteva emergere, dato che loro erano semplicemente uno strumento al servizio dell'uomo. Christian, che gestiva un maneggio, a un certo punto ha deciso che questo, al termine di un percorso, ha deciso che questo non poteva continuare, e dal maneggio ha trasformato la sua attività poco a poco appunto in un rifugio per animali che è gestito da un'associazione di cui lui è uno dei fondatori e che appunto è l'associazione Ipoasi. È una bella storia che racconta come si può cambiare, come può modificarsi il rapporto tra uomo e animale. Quindi animali che appunto, come dicevi, erano prima da reddito, arrivano a questa Ipoasi e lì vivono una vita, diciamo, tranquilla a quel punto, dopo una vita di fatica. Hanno 3 ettari a disposizione in cui vivono insieme, in cui si riappropriano della loro personalità. Una delle cose più significative, una delle cose che più mi ha colpito nella descrizione che mi hanno fatto di questa situazione i volontari di Ipoasi è il fatto che appunto alcuni animali, ad esempio le mucche, un paio di mucche che hanno circa 20 anni, dice c'è una difficoltà nel ospitare questi animali, perché nessuno si è mai preoccupato di affrontare, nessuno a livello di ricerca veterinaria si è mai preoccupato di affrontare il problema dell'insorgere della vecchiaia e dei fenomeni tipici della vecchiaia su questi animali, perché normalmente non superano non arrivano a superare gli 8 anni, perché questo è il tempo di vita di un animale all'interno di un allevamento, il tempo di vita massimo di un animale all'interno di un allevamento. E quindi normalmente, diciamo, al di là di quegli animali che possono trovare rifugio nell'ipoasi, cosa accade? Vengono eliminati questi animali? A un certo punto si sì, vengono eliminati quando non sono più in grado di rispondere all'esigenza per cui l'uomo Li ha mantenuti fino a quel li ha momento. mantenuti o li ha tenuti in vita o li ha utilizzati. E come mantiene questa attività? E comunque gli animali hanno bisogno comunque di attenzioni. Assolutamente, c'è la possibilità attraverso il sito dell'associazione Ippose di adottare i singoli animali, ovviamente a seconda della taglia dell'animale c'è un costo diverso dell'adozione mensile, mantenere tutto il centro Ippose costa un poco più di 3.000 euro al mese per quanto riguarda soltanto appunto ciò che serve per garantire il vitto. Un vitto adeguato a tutti gli ospiti. Devo dire che l'associazione è riuscita a costruire una bellissima rete intorno alle proprie attività, anche legandosi al mondo dell'economia solidale pisana, ma non solo, e quindi questo meccanismo dell'adozione ha un grande successo, e ha un grande successo anche diciamo così, il richiamo che viene fatto a volontari in tutta Italia per andare ad aiutare a passare un po' di tempo all'interno della Fattoria della Pace con la rete WWF, perché ad esempio nell'anno scorso una sessantina di volontari si sono avvicendati ai posi. La prossima puntata di cosa parlerai? Parlerò della viticoltura in una zona particolarmente importante del nostro paese, ovvero una zona dove c'è un rischio per la forte presenza di pesticidi. Una grande azienda vitivinicola ha scelto di cancellare completamente l'utilizzo di pesticidi, e poi di un progetto di riconversione per creare un grande parco agro-silvopastorale al centro di Milano. Quasi nessuno lo sa, vi ricordo appunto per leggere c'è Altra Economia, ma ci si può anche così si possono seguire queste storie anche su Facebook, vero? Sulla pagina Facebook del progetto Riconversione, così come sul blog, appunto sul sito di Altra Economia, oppure seguendoci su Twitter attraverso il canale Riconversione. Grazie a Luca Martinelli e allora buon proseguimento di lavoro e teniamoci in contatto. A presto. L'altro pianeta prosegue dopo la viabilità con storie di agricoltura, per l'appunto. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, abbiamo parlato di riconversione nella prima, ora parliamo di recupero, in particolare di recupero di sementi e varietà antiche. Oggi si svolge infatti la quarta edizione di Seminare il Futuro, una manifestazione cui partecipano una quarantina di aziende agricole italiane, biologiche e biodinamiche, che aprono le porte ai visitatori che vorranno seminare a mano nei campi varietà antiche di grano. Fabio Brescacin è presidente di Ecor Natura Si, partecipa sia all'organizzazione di questa giornata, ma anche ai progetti di semina di queste varietà antiche nelle diverse aziende. Noi invitiamo i consumatori, chi vuole venire, famiglie, bambini, invitiamo gli altri consumatori a venire a seminare praticamente un campo di grano. Prendiamo un campo di grano, diamo a tutti un sacchetto con del grano, quindi con della semente, e a mano, a spaglio, viene seminato questo campo di grano. Quindi condividiamo il processo della semina. Questo per due motivi. Uno, perché effettivamente è una cosa meravigliosa, nel senso che nessuno di noi, o pochi di noi, hanno ancora l'occasione di seminare. Quindi seminare è proprio, come dire, un atto archetipico, no? Io semino e poi lascio alla natura, lascio al tempo, lascio al futuro, e però preparo per il futuro, do la possibilità al futuro che domani ci sia un raccolto. E poi, diciamo, per gli adulti, se vogliamo, per le persone consapevoli, anche ragionare un momentino sul tema delle sementi, che è un tema importantissimo. Come sapete, o credo come molti sanno, le sementi sono così gestite da delle aziende multinazionali o per la gran parte. Quindi noi stiamo lavorando per la biodiversità, biodiversità, stiamo lavorando per avere, per scoprire le sementi autoctone e anche per creare nuove sementi per il futuro, quindi sensibilizzare le persone sulla tematica della semente. Quindi le sementi che verranno, scusi se la interrompo, le sementi saranno non quelle delle grandi multinazionali? Brava, sono le sementi che usiamo noi, nei nostri campi, che quindi sono sementi o sementi autoctone o comunque sementi, insomma, che hanno delle selezioni antiche in qualche modo, delle selezioni fatte per il biologico. E poi un'altra cosa, noi siamo convinti che sia scontato che troviamo da mangiare, no? Ognuno dice, dai, c'è un supermercato, lì vado a comprare. Non è proprio scontato, perché io trovo qualcosa da mangiare oggi, vuol dire che qualcuno ci ha pensato un anno fa, 6 mesi fa, 2 anni fa, e quindi capire che effettivamente dietro il cibo c'è un processo lunghissimo, cioè che è cominciato prima, di cui dobbiamo essere riconoscenti, da una parte col prezzo, quindi pagandolo, ma anche moralmente. E tra l'altro si capisce anche quanto è brutto, diciamo così, sprecare. No, perché si spreca anche il lavoro di tutti coloro che hanno fatto sì che il cibo arrivi. Esattamente. Questa è una cosa, visto che sente la radio, è una cosa importantissima. Noi oggi compriamo con gli occhi, no? Compriamo, come dire, vogliamo comprare la roba bella, eccetera, però la roba uniforme, con più che bello, uniforme, tutto uguale, invece non è così. L'agricoltura è biodiversità, la natura ti dà uno grande, uno piccolo, uno storto, uno dritto. Effettivamente, voglio dire, tante volte noi siamo costretti, noi proprio, a buttare via, gli agricoltori buttano via tanta merce perché il consumatore, come dire, fa fatica, no? O il negoziante fa fatica a comprare. In realtà la cosa bellissima, sarebbe bellissimo che venisse nei campi, quello che viene fuori venisse mangiato. Questo potrebbe far abbassare i prezzi anche del prodotto biologico e eviterebbe lo spreco, che è una cosa veramente molto molto molto importante. Un'altra rassegna molto interessante si è tenuta invece la settimana scorsa in provincia di Piacenza, al castello di Paderna. Frutti Antichi è arrivata ormai alla 19ª edizione e raduna appassionati vivaisti, agricoltori ed artigiani che mettono in mostra i loro saperi antichi per altrettanto appassionati visitatori. Organizzatori sono il Comitato FAI di Piacenza ed il Castello di Paderna, ovvero i proprietari del castello Pierluigi Pettorelli e la moglie Cristina, che come tanti di noi cominciarono a ragionare su quello che mangiavano diventando genitori. Il tutto nasce da una mela che era in tavola mentre mio figlio era appena nato, perché mio figlio ha 20 anni, e io e mia moglie ci rendiamo conto che questa mela, in realtà mela di un supermercato, in realtà è un sottoprodotto che probabilmente nel mondo medievale avrebbero dato da mangiare i maiali, non l'avrebbero mangiata i cristiani. E da lì incominciamo a fare qualche telefonata. Io facevo parte allora dell'Associazione Produttori Biologici Piacentini, faccio qualche telefonata, veniamo a scoprire che a Milano c'è un'associazione che si chiama Pomona, che adesso esiste credo ancora, ma però si sono trasferiti giù in Puglia ad una bella azienda con una collezione di fichi, e Paolo Belloni, ecco, mi è venuto in mente il nome. E da un po' di telefonate, poi alla prima riunione dell'Associazione dei Produttori Biologici incominciamo a parlare di questa cosa. All'interno c'era l'allora segretaria del FAI di Milano, la Paola Gazzola, e incominciamo a dire: ma perché non facciamo non mettiamo insieme questi produttori che sono attaccati ancora a questi prodotti, che allora si poteva pensare che fossero dei prodotti minori, e poi devolviamo tutto all'Associazione Produttori Biologici. Così abbiamo fatto. La prima annata, vedendo la mostra di oggi, la prima annata era tragicomica. Però voi ne foste soddisfatti? Beh, no? Certo, sì, perché poi, vabbè, quando si cresce e ti guardi indietro ti scappa da ridere. E la prima annata, io direi che erano una quindicina di espositori. E un zona, immagino, forse, sì, più che altro. Locali, e un migliaio di visitatori, ad essere abbondanti. Però insomma l'idea era buona, erano tutti produttori, e questa idea è rimasta, perché in questa mostra 19 anni dopo la maggior parte degli espositori sono produttori. Il prodotto l'hanno fatto con le loro mani e viene dalla loro azienda, e sono presenti al banco, per cui possono, chi meglio di loro può dire cos'è successo quell'anno, che cosa ho macinato, che cosa ho vinificato, che cosa ho raccolto, è piovuto, non è piovuto. E qual era l'origine, perché poi voi ci tenevate anche all'origine di questo prodotto. Certo, certo. E quindi adagio adagio, la mostra è cresciuta. Quest'anno siamo credo sui 140-150 espositori, mantenendo però i più rappresentativi, più importanti, insomma. E avete eliminato, mi diceva prima, anche quelli che negli anni avete visto crescere, certo, quindi salvare una... Noi negli anni abbiamo visto che alcuni produttori che avevano un prodotto a rischio di estinzione incominciavano a produrre, incominciavano a vendere, qualcheduno diciamo allora produco anch'io, impiantavano vigneti, impiantavano frutteti. Tra l'altro è presente quest'anno un amico, un mio amico di quando correvamo in moto, che si è appassionato, ha fatto un frutteto e ha delle arancia Cox, che sono delle mele strepitose, le ho assaggiate. Quindi voglio dire, è una macchina che si mette in movimento, e alcuni produttori poi che escono dal rischio di estinzione, allora noi li accantoniamo e ne tiriamo dentro qualcheduno che giudichiamo più a rischio, diciamo. Questa mostra serve anche a educare il consumatore e a educare il goloso, a far diventare il consumatore un goloso. Io dico semplicemente che andiamo a conoscere qualcuno di questi, andiamo in uno stand di quelli che, di cui lei mi ha parlato. Adesso io le lascio l'onore di presentarlo, perché è uno, credo, anche di quelli che forse le sta dando più soddisfazione. Sì, perché dopo che ho assaggiato il vino ancora di più. Ecco. Allora, siamo nello stand della Maria Capretti, dove c'è un vino perduto, ritrovato, annegato, ripescato, non so come dire. Di alterne vicende, alterne fortune. Il vigneto addirittura era stato abbandonato. È il vigneto che si trova da Brescia Bassa, mi corregga, dalla città, andando verso il castello. C'è un vigneto urbano di 2 ettari, di 4 ettari, ma quelli coltivati a Invernenga sono 2. Al momento, speriamo che poi incrementino. Quest'uva è veramente perduta nella notte dei tempi e esiste solo lì. Sentiamo cosa dice. Sentiamo intanto le alterne vicende che l'hanno riportata. È interessante perché io sono una neofita del campo, cioè era mio papà quello appassionato e quello che veramente aveva creato la prima azienda Pusterla e tutto. Poi quando è mancato, la mamma hanno venduto un po' di cascine di fronte, ha mantenuto sempre quel vigneto perché sapeva che io l'avevo nel cuore, comunque era quello che dava effettivamente più soddisfazioni, però poi nel tempo anche i mezzadri hanno lasciato per età e tutto. Il papà poi ha creduto alla vinificazione, aveva creato questo vino Pusterla Valle d'Oro, che aveva vinto anche premi, era stata nominata e tutto così, e in purezza io ho voluto riportare l'Invernenga vinificata in purezza. E soprattutto credendoci a quello che sentivo, le storie di famiglia del papà e tutti i suoi aneddoti. Io sto vivendo proprio di rendita, io non sono del campo della vita e tutto. Quindi lui mi ha sempre detto: cerca delle persone valide che ti aiutino, fidati se ti sembra che valga la pena perché ti danno, fidati del campo, fidati di quest'uva, fidati delle viti. Non aver problemi a dire che sbagli o che chiedi consiglio. E io sto facendo quello che mi diceva lui e sto cercando di andare avanti. E finora sì, perché sto incontrando veramente una realtà che non avrei creduto che fosse ancora viva. Ci fermiamo qui. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento la settimana prossima.